Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ma come? Non ti sei fatto niente? Ha stato Santa Eusebia! Ha stato Santa Eusebia che l'ha preso al volo! Ringraziamo Santa Eusebia! Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura, senza stelle, senza luna, c'è una grande luce nel cielo. Faccio subito una premessa. Lungi da me, ma lo dico sinceramente, su ciò che ho di più caro al mondo, non voglio fare una trasmissione di presa in giro dei santi. I santi a me divertono moltissimo, a me i santi interessano. I santi sono una mappa di ciò che ha attraversato l'umanità dalla notte dei tempi. I santi, grazie a Dio, al loro Dio, lasciano traccia. Dei santi rimane qualcosa, se no non sarebbero santi. Roma è una città in questo momento che è alla ricerca di santi a cui raccomandarsi. Beh, io mi sono abbastanza meravigliato, ho sentito l'endorsement di Marchini per Virginia Raggi, come Marchini che aveva abbracciato il pensiero clericale al punto tale di dire non celebrerò le nozze di coppie che non siano formate da maschio e femmina, e adesso oggi fa l'endorsement per 5 Stelle, che è il più mangiapreti degli schieramenti, che ha già detto che rifaremo pagare l'IMU alla Chiesa e via dicendo, quindi sotto le tonache tremano tutti. Cosa accadrà a Roma in questo momento? Chi ha già votato, che è fuori, per chi voterà? E sarà divertente vederlo, e penso che in questo meccanismo di patteggiamenti, di sbilanciamenti, di promesse, di richieste, comunque i santi avranno un loro ruolo. Quindi mi interessa questa mattina sapere dai cittadini che mi ascoltano, non soltanto romani, da tutti gli italiani, a quale santo voi vi raccomandate, perché questa mattina vi parleremo di un percorso interessante fatto attraverso una 50-60 case di santi costellate per la città di Roma. Roma è una città misteriosa, fantastica, piena di mistero. Qualcuno per noi è andato a vedere le case dei santi, luoghi dove i santi hanno coltivato, esaltato, emanato la loro santità, e dove naturalmente è rimasta traccia della grazia che loro hanno lambito. Quindi potrebbe essere una sorta di geolocalizzazione dei luoghi in cui andare a raccomandarsi a qualcuno, visto che l'ultima speranza è proprio raccomandarsi a un santo. 800 24 00 24, a tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Hanno rivisto stamattina i devoti del santo 40 anni dopo la sua morte. Una sottile maschera di silicone ne protegge il volto, dove però colpisce la bella barba bianca che è proprio quella di Padre Pio. Disteso in una teca di cristallo, il saio marrone cucito dalle cappuccine del monastero di clausura di San Giovanni Rotondo, ma soprattutto il volto, con la sua folta barba bianca ancora incorrotta dopo 40 anni. È la maschera di silicone che ricopre il volto di San Pio ad attirare subito lo sguardo dei pellegrini arrivati in massa a San Giovanni Rotondo. È uno degli argomenti che è stato nostro cavallo di battaglia, il potere di conservazione del silicone che sostituisce la necessaria grazia che mantiene in vita il corpo santo nel caso di Padre Pio. Ma non vogliamo parlare di Padre Pio questa mattina, vogliamo parlare dei santi probabilmente meno conosciuti, che comunque in qualche posto lasciano traccia perenne del loro passaggio. Io i primi anni che venni a Roma alla ricerca di un senso della mia vita, mi ricordo che vagolavo per la città alla ricerca di santi. C'era dentro Sant'Andrea della Valle un bellissimo arcivescovo, bellissimo, io pensavo che fosse incorrotto, in realtà era totalmente plastificato, ricoperto di cera. C'era la Beata Taigi all'inizio di Viale Trastevere, era molto interessante questa signora, questa santa che dava consigli ai papi, anche lei sembrava sotto quel velo intatta. Poi col tempo divenni più perspicace e seppi che c'erano comunque degli interventi umani per mantenere comunque attorno a quelle ossa, a quella polvere, a quei rimasugli di carne umana attraversata alla grazia, una fattezza umana, perché che il fedele non può vedere un teschio dalle vuote occhiaie, non può vedere soltanto un mucchietto d'ossa, si vede qualcosa che ricorda l'umano che attraversò nella sua avventura terrena un cammino di grazia, è maggiormente confortato. Cosa vogliono gli ascoltatori questa mattina? mattina. Voglio che mi aiutate a tracciare una mappa delle case dei santi nascosti sotto qualche altare, in qualche teca, in qualche angolo della vostra città, del vostro vicolo, che sono comunque luoghi di attraversamento di emotività, per chi ci crede e per chi non ci crede. Vedere un corpo conservato, mummificato, appoggiato da qualche parte sotto una teca di vetro ha comunque un significato, comunque ci si ferma davanti ai cappuccini dell'inizio di viale di via Veneto. Non si può fare a meno di andarci, perché è una sorta di cripta ricoperta di cadaveri di frati cappuccini. Fra di loro non so ci sono santi, qualcuno ci disse che però c'erano gli ultimi difensori del Papa Re a Porta Pia. E la stessa persona che ci raccontò questa storia e ci raccontò che anche i martiri del Risorgimento ebbero lo stesso trattamento, la stessa mummificazione, la stessa glorificazione di parte del loro corpo, perché anche il pensiero laico appoggiasse su qualcosa che emotivamente fosse familiare, oggi è qui per raccontarci le storie dei santi. Marco Pizzo, buongiorno. Buongiorno. Marco Pizzo è direttore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma. L'abbiamo sentito proprio per il 2 giugno, ci raccontava il senso che ha appunto nella nascita, nella crescita, nella solidificazione idea di Repubblica, le radici risorgimentali. Marco Pizzo, siccome persona eclettica, ha anche scritto un libro, Le case dei santi a Roma, libro guida pubblicato da Bologna University Press, l'Università di Bologna, dove attraverso anche un percorso con una ricca iconografia che non farò meno di descrivervi volta per volta, è andato a cercare le case dei santi. Allora, Marco Pizzo, sei andato a cercare dei santi che normalmente, sì, ognuno di loro avrà un suo culto personale, un gruppo di fedeli, ma non sono proprio i santi che tutti i giorni si vedono in televisione sfilare nella gloria degli altari. No, sono dei santi che in qualche maniera spesso sono stati dimenticati, ma che dentro Roma hanno conservato quella che è stata considerata la loro reliquia più preziosa, cioè il luogo dove loro hanno abitato. E la stanza, cioè la casa del santo, è la reliquia per eccellenza, cioè non sono dei santi inventati, hanno vissuto una vita, stavano lì e hanno raccontato una storia e hanno avuto anche dei fenomeni di devozione enormi, di cui oggi spesso noi non conosciamo più niente. Quindi il santo un po' segue un po' il destino dell'uomo politico. Ha una sua ascesa, una sua apoteosi, poi comincia anche un periodo di decadenza. Qual è quello che ti ha incuriosito più di tutti? Poi ne racconteremo, in questo libro ne metti una ventina. Sì, ne metto una ventina in cui fondamentalmente sono dei luoghi che io ho cercato quelli che fossero ancora visitabili, ecco. Questo è stato il criterio. Visitabili però chiedendo le chiavi a un custode? No, visitandoli, ma sapendo che per esempio al secondo piano di una chiesa è possibile andare a vedere la stanza di un santo, come il caso per esempio della stanza Stanislao Kočka, che è alla chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, famosissima, di fronte al Quirinale. Ma al secondo piano c'è la stanza di questo santo. Come se fosse un appartamento. Un appartamento in cui chi c'è in questo appartamento? In questo appartamento c'è solo la statua del santo morente, che morì 17enne. Che santo era? Sono molto ignorante. È un santo gesuita. Che morì a 17-18 anni, ma la cosa importante è che è un monumento sepolcrale barocco bellissimo. Chiuso in una stanza, con tutti gli oggetti che toccava questo santo. E che oggetti ci sono? Ci sta il suo libro di devozioni, le sue pianelle, la sua tonaca, cioè gli oggetti reali. Ma la cosa interessante è che tutti gli affreschi di questa stanza sono per esempio di un altro gesuita, Andrea Pozzo, che è un artista famoso del barocco romano, ma che nessuno conosce. Ma non ha avuto un revival nemmeno con il Papa gesuita? No, è un revival per addetti ai lavori. Bisogna conoscere questo ambiente, che al di là della specificità della santità è secondo me uno degli ambienti più belli. Chi lo custodisce? Lo custodisce i gesuiti, ma mediante il centro emigrati del centro Stalli. Quindi? Un extracomunitario, mi pare la metafora della Roma contemporanea. Di che nazionalità? È africano. Cioè un africano che è lì tutti i giorni, fa? Pulisce le babbucce, lucida dalle chiavi della stanza, e a lui dedicata è la sua attività principale. E secondo me è il custode della memoria di un santo, uno che dovrebbe essere in gloria fra Dio e tutti gli altri santi. C'ha questa statua, le sue babbucce, le sue babbucce, è lui che preserva in qualche maniera la memoria di questa santità dimenticata. 800240024, avete capito qual è il filo del racconto? Ecco, voi avete testimonianza, visto che Marco Pizzo è uno storico, uno studioso, e lui anela e brama di trovare altri reperti, visto quando io ho chiamato a raccolta gli ascoltatori che volevamo reperti risorgimentali, c'è stata una gara a chi fornisse il cimelio garibaldino più importante. Quando abbiamo chiesto cimeli fascisti, c'è stata la gara chi offriva il capoccione del duce nascosto sotto il letto del nonno, del bisnonno o dello zio della marcia su Roma. Ecco, in questo caso noi vogliamo sapere, avete testimonianze di santi dimenticati, di santi abbandonati, santi che magari ancora potrebbero ascoltare le preghiere e le bozzoni di qualcuno, di corpi di santi abbandonati, di reliquie di santo, perché a Roma ce ne sono molti, che è la città per assurdo più frequentata dal sacro pellegrinaggio, ce ne sono tanti di cui nessuno sa. C'è una santa in particolare molto cara da questa mattina che l'ha saputa, Fabrizio Intonti, che è un noto fotografo, una santa fotografa. Suor Pierina. Suor Pierina, che la sua reliquia è una macchina fotografica. È una macchina fotografica, perché era una suora che fondamentalmente si dedicava alla fotografia, e la cosa assolutamente più strana è che il simbolo del suo ordine religioso, che è il santo volto di Cristo, è presa da un'altra fotografia, cioè è la fotografia della sindone di Secondo Pia di Torino. Cioè lei ha preso come modello del suo ordine religioso la fotografia di una sintra. Beh, è una santa molto moderna, se pensi. Ma è modernissima anche questa. Cioè, se avesse vissuto ai tempi di Instagram, chissà cosa avrebbe prodotto di santo. E tra l'altro ha fatto le fotografie, e le sue fotografie sono delle reliquie di santità. Nella sua casa, che è sull'Aventino, all'interno della sua stanza reliquia museo, ci sono tutte le fotografie che lei ha scattato. Quindi questo è un dato molto importante, lo sottopongo all'attenzione di chi ci ascolta. È così forte e persistente il concetto di santità legato alla grazia che possiede il santo, il corpo da cui il corpo del santo è attraversato, che se il santo è fotografo, la sua foto è un atto prodigioso, diventa una reliquia. Certo, e comunque si chiama santità per contatto. Siccome in qualche maniera il santo l'ha toccata, è il suo punto, è il suo santo punto di vista. Esatto, e quindi sono delle fotografie sante. Senti, cos'è questa foto della bara di Suor Pierina? Vedo insieme come illustrazione la stessa pagina dove c'è la macchina fotografica. Perché nella stanza della santa purtroppo non c'è il corpo della santa. E che fine ha fatto? È stato seppellito in Lombardia nella sua origine. Ma se lo sono perso, si sa? No, si sa, nella casa madre. Ma c'è ancora, diciamo, un ordine religioso? Sì, sì, sì. Che la c'è una congregazione femminile. Della Beata Pierina De Micheli. Esatto, che segue la sua attività. Ma la cosa interessante è che poi questa santa, che aveva delle visioni demoniache, c'era l'autocombustione. Quindi uno entra nella sua camera da letto con le coperte bruciate, le lenzuola bruciate, i paramenti tutti che sono dei pezzi di carbone, e si fa capire anche che la forse il processo di sviluppo con gli acidi. No, non lo so. Cioè, comunque sono segni di passaggio demoniaco. Segni di passaggio demoniaco. E foto dei demoni, però non l'ha fatto. No, questo sta nel Museo del Purgatorio, un altro ambiente romano. Ah, ce lo racconti, però. Fa un istante che devo dare la linea all'informazione della borsa. Esiste un altro ambiente romano, c'è cioè un museo dove uno può andare lì, con poco si entra, ti danno un libricino. Ci sono tutte le tracce delle mani demoniache. In questi giorni uno deve raccomandarsi ai santi, ma non tutti possono avere questa apertura di spirito. Qualcuno magari può chiedere qualche favore al diavolo, e noi diremo tra poco dove andarlo a cercare. A tra un istante. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Melog, cronache meridiane. Vi ho chiesto, cari ascoltatori, datemi segnalazione di santi abbandonati, santi sconosciuti, case di santi poco frequentate, perché in questo momento di ballottaggio siamo sicuri che fare la mappa in cui geolocalizziamo i luoghi dei santi che magari sono più favorevoli a fare grazie, visto che se li sono dimenticati o se li sono, diciamo, sono stati sovrapposti da santi nuovi, più potenti, più moderni, più abituati comunque a gestire l'immagine e la comunicazione. Lo stiamo facendo noi questo percorso su Roma grazie a Marco Pizzo, che è direttore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma, che ha scritto il libro Le case dei santi a Roma, Bononia University Press. stampato dall'Università di Bologna. Abbiamo colto nella prima parte della trasmissione una fantastica suora, la Beata Pierina De Micheli, che abbiamo scoperto che si faceva dei selfie, la santa dei selfie, una beata che aveva una macchina fotografica, sviluppava foto a casa sua, cioè il suo laboratorio di sviluppo, e sono le foto che lei si faceva con le consorelle, una santa che è vissuta ai primi anni del 1900, 1915, sì. Ci sono le foto fuori porta delle gite, faceva con le consorelle e si facevano il selfie, lei era la fotografa, faceva la foto e poi le sviluppava. Andando avanti da questo luogo di Santa, in cui ci sono tracce di incendi, autocombustione, via dicendo, siamo arrivati a parlare lungo il Tevere, dalle parti del Lungotevere, come si chiama, dove sta esattamente il posto del luogo del purgatorio che avevamo detto? Vicino a Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo, prima di Castel Sant'Angelo, all'interno c'è Piazza Cola di Rienzo, c'è una sorta di chiesa stranissima, assomiglia a un piccolo Duomo di Milano, così almeno lo chiamano i romani. Dentro poi c'è il Museo del Purgatorio, ci sono altre combustioni. Ci sono altre combustioni, ci sono le tracce demoniache, che sono praticamente le tracce che il demonio ha lasciato su porte, finestre, oggetti, cimeli, libri, e in qualche maniera viene considerato come una sorta di museo del demoniaco e del fantastico, più che altro. Sì, ci sono queste mani incendiarie che lasciano tracce ovunque. Però la cosa che mi interessava è cominciare a vedere dei punti comuni con queste case dei santi. Io davanti ho il libro che ha molte foto, la casa di Santa Paola Frassinetti, che è una santa vissuta dagli inizi dell'Ottocento, 1809-1882. Dentro vedo, ecco, la classica immagine della mummia della santa vestita da suora nella teca di cristallo. Ecco, parlami di questa. Allora, anche questa santa, praticamente oggi sfido qualcuno a ricordarsi di questa santa, che invece durante il periodo della Repubblica Romana, quindi arriviamo a temi a Meccari, cioè il 1849, non solo ospitò i feriti dei garibaldini che stavano all'assedio di Roma, ma in qualche maniera divenne il quartier generale delle truppe di Garibaldi. Tant'è che dentro questo convento ci sono le lapidi che ricordano queste testimonianze. Ma questo è singolare, come i corpi degli ussari, no, come si chiamano? Degli zuavi pontifici, che sono sepolti insieme ai cappuccini, lì nascosti. I garibaldini andarono lì, alla salita di Sant'Onofrio, perché questa casa è alla salita di Sant'Onofrio, al secondo piano di questo convento. Lei aveva fatto una sorta di infermeria di campo, dove aiutava i garibaldini feriti. E la cosa paradossale è che questo monastero e questa santa, in qualche maniera, godevano di una extra comunità, potevano fare quello che volevano, e ci stanno ancora le targhe di ricordo del 1870, cioè quando Roma viene liberata, tutta Roma gli rende grazie a questa suora del tutto particolare. Senti, la casa di San Camillo dell'Ellis, cos'è questa urna sotto, cosa contiene? Contiene le bende dei lebbrosi. Questo è interessantissimo. Questa dov'è intanto, questa chiesa? Vicino al Pantheon, alla chiesa della Maddalena. Ah, San Camillo, alla Maddalena, sì. Siccome San Camillo dell'Ellis era uno dei santi fondanti dell'assistenza infermieristica, lui curava i lebbrosi, e ci sono queste ampolle in terracotta in cui ci sono le bende dei lebbrosi romani della peste del 1600. Impregnate di pustola di lebbroso. Non solo, ma tutte le lettere che venivano inviate in quel periodo venivano in qualche maniera purgate, perché si pensavano che attraverso la carta fosse possibile il contagio della peste. Quindi venivano spennellate con una sorta di acido fenico. Si pensava che tenesse lontana la lebbra. E quindi tutte le lettere del periodo hanno queste belle spennellature marroni che in qualche maniera dovevano servire ad allontanare la peste. Senti, questa mano mummificata di chi è? Santa Caterina da Siena. E dove sta? Nella casa di un'altra casa non romana, questa proprio a Siena, in cui c'è la reliquia di Santa Caterina. E noi abbiamo tutto un vasto repertorio, cioè abbiamo le mani mummificate, ecco, San Camillo, la reliquia sia più importante, è il cuore di San Camillo, che venne estratto dal cadavere. E c'è reliquia, e lo tengono nella cripta del cubiculum alla chiesa della Maddalena, c'è un'ampolla di cristallo con dentro il cuore. Che galleggia dentro questa urna in cristallo. Ma proprio è intatto? È intatto, si vede proprio il cuore di San Camillo dell'Ellis. Senti, quanti altri corpi veri ci sono? Cioè non camuffati, immersi nella cera, quanti ne hai trovati? Beh, parliamo di decine e decine di corpi veri. Anche se spesso di questi corpi esiste solo la parte ricreata. è raro trovare un corpo di santo con lo scheletro originale. Completo. Ma la tecnica com'era? Diciamo, li affogavano nella cera, in un bagno di cera, e ricostruivano il volto. Oppure c'erano in cartapesta, e si arriva ai giorni nostri in cui c'è silicone, plastica e tutto quello che può servire allo scopo. Senti, il padre fondatore dei gesuiti, Sant'Ignazio Loyola, è stato a Roma. C'è una casa di Roma dove ci sono le sacre ciabatte di Sant'Ignazio. Sì, ed è una casa del tutto particolare. Raccontamelo. Perché la casa di Sant'Ignazio Loyola è accanto alla chiesa del Gesù. E la casa si compone di due zone. Una più adatta allo spirito dell'ordine, quindi ci stanno queste decorazioni bellissime, illusionistiche di Andrea Pozzo, eccetera. E poi invece ci sono proprio gli ambienti veri vissuti dal santo, che sono spogli semplicissimi. Ecco, ci stanno le sacre Crocs, più o meno somigliano, esatto, a quelle. Sono le sue pantofoline, c'è la sua sedia. Questa cos'è? Questa stola? Quella è la stola in lana che lui utilizzava. Erano proprio gli oggetti. È la cintura Gibò del tempo. La cintura, esatto, tutte quante le sue cose originali. E ecco, qui chi ci va? In un posto come questo, in fondo, ripeto, è un'icona, diciamo, della devozione, però mi sembra che è abbastanza defilato rispetto ai luoghi di culto dedicati a lui. Tant'è che in genere chi segue il culto di Sant'Ignazio va alla chiesa del Gesù o a quella di Sant'Ignazio. Certo. Pochi sanno, cioè pochi sono i frequentatori invece della casa. Qui ci ha vissuto lui. Ci ha vissuto, e secondo me invece visitare le case dei santi consente di capire tutta la loro rivoluzione. Cioè i santi uno ora li vede un po' come la chiesa ufficiale, cioè una cosa un po' consolante, ma ai loro tempi questi santi furono dei veri e propri rivoluzionari dell'epoca. Questo è una coppia di santi, casa di San Felice da Cantalice e di San Crispino, stanno assieme? No, sono stati messi assieme, perché da una dopo morti. Ma la cosa divertente è che hanno smontato una casa e l'hanno rimontata nella chiesa della Madonna di Via Veneto. Quindi hanno smontato proprio la stanza di San Crispino e l'hanno rimontata accanto che a quella che è la cripta piena di teschi, di mummie. Accanto ci stanno anche queste due stanze, una vera e una rimontata. E ci hanno messo questi due frati dietro. Esatto. Ma perché si conoscevano? Erano tutti e due appartenenti all'ordine dei Cappuccini. E l'hanno messi a vivere assieme. E l'hanno messi ma convivevano anche nella vita. No, erano in due parti distinte. Carlo da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti. Volevo soltanto una piccolissima indicazione o precisazione. Avete parlato prima vicino a San Pietro, vicino a Castel Sant'Angelo a sì. Roma, che è la chiesa del Sacro Cuore del Suffragio. Sì. Le tracce di incendio, di fuoco, mani, cenere e ristorrendo, sì, sono successive all'incendio dell'originaria chiesa. E quindi non c'entra il diavolo non c'entra nulla? No, c'entra non il diavolo, probabilmente, almeno secondo quella che è la tradizione. Il cappellano della chiesa che si era scottato le mani è andato a appoggiarle sul legno e ha lasciato la traccia. La tradizione, no, perché ci sono delle stoffe anche che sono rimaste con tracce, non completamente bruciate. E secondo la tradizione non sono anime demoniache, ma le anime sante del purgatorio. Beh, però un pochino gli rode, perché se lasciano il fuoco non è che vogliono tanto contento. Questo non c'è dubbio, ma nel purgatorio tradizionalmente ci sono delle fiamme per scontarla. Sarebbe appunto un pre-paradiso, sarebbe. Esattamente. Va bene, ci piace questa precisazione. Quante altre tracce invece di possenti lotte col demonio ha trovato in queste case di santi? In quasi tutte le case dei santi ci sono comunque... C'è l'angolo del combattimento, perché la vita del santo non è mai qualche cosa di normale, di tranquillo. Tutti saremmo santi. Sono le tentazioni di Sant'Antonio, fondamentalmente. Tutte donne nude, cornucopie, nel deserto però, nessuno può testimoniare. La santità è il combattere... La tentazione. E la tentazione è sempre demoniaca. E quindi ecco che in tutti questi luoghi di santità ci sono sempre questi momenti un po' di contrasto, di vita in qualche maniera che non era tutto sommato così lieta e tranquilla. Beh, Santa Francesca Romana, che sarei andato a casa sua. Certo. È tutto un affresco in monocromia di tutte le continue battaglie e combattimenti che aveva con il demonio, tutto demonico. Ma la cosa che ecco io ho scoperto visitando casa sua è che in questi affreschi bellissimi del 1400 la vita di Santa Francesca Romana viene raccontata non in latino ma in dialetto romano. È scritta in romanesco. Per questo Francesca Romana è la patrona più amata dai romani. L'aprono soltanto una volta l'anno con la chiesa, ma c'è un sacco di gente. vendono i profumini, le erbette, tutte cose. Sì, è rimasta, e la cosa interessante è che questo convento è rimasto tale quale così com'era nel Medioevo. Quindi tutto sommato che il fatto che queste case di santi siano poco frequentate, questo permette la conservazione. Pensa ci andassero file giapponesi a farsi selfie come alla Bocca della Verità. Per questo sono scomparirebbero. Meravigliosi. C'è la camera di San Giuseppe Calasanzio che subì anche dei processi inquisitoriali, che venne murata al momento della sua morte perché avevano paura che rubassero le reliquie. È rimasta murata. L'hanno smurata nel 1800 e hanno trovato sotto al materasso l'unica o una delle pochissime copie delle teorie di Galileo Galilei in edizione originale, perché era conservata dall'assistente di Santa Giuseppe Calasanzio che l'aveva nascosta sotto al letto del santo. Cioè come oggi un ragazzino che nasconde YouPorn, l'equivalente. Te ne ha nascosto Galileo sotto il materasso. Ed è l'unico libro proibitissimo. Condanna dell'Inquisizione, la copia originale con gli emendamenti a mano sta lì. Francesca, Carla, provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti, la seguo sempre con molto piacere. Veramente. Con molta devozione. Mi dica per oggi quale santo perduto, sconosciuto, abbandonato vuole segnalarci. Non è né sconosciuto né abbandonato, però agli inizi, poi io non lo chiamo santo, Padre Pio, io continuo a chiamarlo Padre Pio. Allora, Padre Pio conosco tutti, è il più famoso del mondo. Ma non c'entra questo, c'entra il fatto che per esempio questo l'hanno fatto santo, ma lui era già santo, ci sono tante persone che sono sante e non sono salite all'onore degli altari, diciamo questo. Ferma, se lei è credente, è santo chi viene fatto prima, santo. Sì, ma lui agli inizi proprio quando cominciava a spargere la voce che lui faceva, guariva, ma lui non diceva a nessuno ti guarirò, non lo diceva a nessuno, diceva prega e spera. Mia zia nel 57... Ma girava voce, ormai tutti lo sapevano quando andava lì per guarire. Mia zia nel 57 era andata giù da Padre Pio, una cosa che mi ha fatto pensare moltissimo, perché e lì cosa non, fatto? Non è... Cosa posso raccontarlo, non è un trucco? No, posso raccontarla? Certo. È una cosa di vita, no? Allora, ferma un attimo. Lasciamo un po' di suspense, perché devo dare la linea, devo darla già da un minuto. Resti in linea, prenda fiato. Fra pochi istanti, dopo la pausa, sentiremo il racconto dell'incontro ravvicinato di Padre Pio con la zia di Francesca Carla, provincia di Monza, che deve segnalarci un episodio assolutamente inedito, legato alla nostra ricerca, alla nostra geolocalizzazione della santità in momenti di ballottaggio. Ci sembra un'indicazione utile e senz'altro di servizio. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Siamo alla ricerca del santo perduto. Indicazioni utilissime per chi in questo momento deve raccomandarsi in qualche maniera e ricerca poteri ultraterreni, assieme a Marco Pizzo, che è direttore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma, ha scritto un libro, Le case dei santi a Roma, Bologna University Press. Velocemente, cos'è questa sacra forbice presa da una foto di una casa di santo? C'è un forbicione sottoteca, cos'è? È la forbice che utilizzava un altro santo eccentrico, San Giovanni Benedetto Labbra. E che ci faceva con la forbice? Era l'unico strumento che lo utilizzava per tagliarsi la barba e i capelli, visto che andò mendicante per tutta la sua vita, percorrendo tutta l'Europa, e aveva solo un vestito e un paio di forbici. Vabbè, l'igiene era salva almeno. Allora, ci siamo interrotti con Francesca Carla, provincia di Monza, che ha un episodio inedito da raccontarci. Allora, Francesca Carla, lei... Sì, allora nel 56 o 57, no? Quanti anni aveva la zia allora? La zia avrà avuto 28-29 anni. Una fanciulla in fiore. Aveva un problema al collo, per la tiroide si era ingrossato il collo molto, no? Era un pochino abbondante di collo e quindi è andata da Padre Pio. Una bellissima ragazza, ma nel giro poco tempo gli era successo questo. Allora, era in cura, sì, era in cura da dei medici che davano delle pastiglie, eccetera. Però, ma non servivano a nulla. Lei era, mia zia, era del Cuneese, è una famiglia di 10 persone, 5 maschi, 5 femmine, padre e madre, una famiglia religiosa, eccetera, no? Ma mia zia sapeva benissimo che non avrebbe potuto andare giù di là a dire a mio nonno, vado giù da padre a fare tutti quei chilometri. E mica ce la mandava, poi giravano anche delle voci. Lei è andata con una cugina, a mio nonno ha detto, vado a trovare mio fratello Giovanin che sta in Val di Susa, e mio nonno contento ha detto, ma sì, vai, che così ti sbagli un po'. È allora, andata in Puglia, scusi, ma la parte opposta. Invece sono andate giù, invece le due cugine sono andate giù da Padre Pio, hanno aspettato 2 o 3 giorni, hanno preso una stanza, che so, tutta una roba. E poi quando lei è andata lì da Padre Pio per confessarsi, voleva parlare con lui, no? Dopo aver aspettato tanto e aver fatto comunione, aveva paura perché diceva Padre Pio, dicevano che capiva tutto, se tu non sei in grazia di Dio, aveva un paura. Ma perché aveva lei... delle magagne che non voleva che si capisse? Lei non voleva che si sapesse che lei aveva raccontato una storia a mio nonno, no? Per andare giù là, detto, vabbè, era un santo fine di vedere Padre Pio. Allora? Quello. Forse aveva altre cose che aveva altre cose che non voleva che si capisse. Sì, a parte il collo. Questo me l'ha raccontato lei. Sì, allora certo. Dice che lei ha detto che ha cominciato così la confessione. Cioè, andare avanti, Padre Pio ha detto: oh, cara figliola, non devi aver paura. Tu è vero, non hai raccontato la verità, ma questo non è una cosa grave. Tu hai raccontato una bugia a fin di bene, tu volevi venire da me. Era una cosa buona, non ma è il una bene cosa era per Padre Pio, quindi. Padre Pio ha anticipato quello che mia zia voleva dire. Ah beh, gli ha letto nel pezzo. Beh, grazie, è un santo, aveva vari doni, l'ubiquità, la preveggenza, anche questo è legge. È rimasta, colpita sua zia? Sì, molto. Lei, poi Padre Pio ha detto, non preoccuparti, tu prega e spera. Io mi ricordo mia zia, alla sera, rosario con tutti noi, in più noi andavamo a dormire, anch'io, no, bambina. Sintesi. Si è sgonfiato il collo? Sì. Ci sono voluti un anno e mezzo, quasi 2 anni. Lei era in cura a Torino, dove c'è il Cotolengo, perché c'erano dei bravi medici, lei veniva curata. Quindi i medici non c'entrano niente. Padre Pio gli ha curato in 2 anni il collo. Grazie, no. Francesca. Altre cose sono successe, altre cose. Comunque, io per me continuo a chiamarlo Padre Pio. Va bene, complimenti. Famiglia benedetta, Pietro da Lucca. Buongiorno. Chi ci segnala lei? Chi ci segnala? Sì, intanto la ringrazio di avermi ospitato nella vostra trasmissione. Poi io sono in una città che è magica per conto suo, perché e per vari motivi, però io posso parlare sarebbe, di Santa, sarebbe di Lucca. Sarebbe Lucca. Sì, Lucca. Sì, lo dicevano anche i perugini, hanno a Lucca si mangia, si beve e allora in questa città magica che succede? Io parlo di Santa Vianna d'Algani, conosciutissima all'estero, tant'è che ha congregazioni a Boston. E cosa ricorda di questa santa? Questa Santa Vianna d'Algani, che lei combatteva il diavolo, in casa sua ci sono i graffi famosi del diavolo, che però vai a vedere fuori dalle chiese dove lei pregava, ci sono questi graffi del diavolo, altro non sono che le affilature delle spade, dei coltelli, dei mercanti che erano fuori, che vendevano la carne, il pesce. Ah, quindi non era il diavolo? Non era il diavolo, è soltanto, però per la sentiamo Marco Pizzo, questa Gemma Galgani è una santa nota. Allora, Gemma Galgani è un grande patrimonio della cultura italiana. Gemma Galgani è una santa a tutti gli effetti, si chiama passionista, perché appartiene di diritto all'ordine. Però gli artigli del diavolo sono i coltelli, dice. Sì, ma al di là degli artigli del diavolo, la cosa interessante è Gemma Galgani, che lei scriveva dei diari, delle corrispondenze, che rappresentano una degli esempi più grandi di storiografia femminile. Adesso è tanto nota all'estero quanto poco in Italia, ma proprio perché rappresenta in qualche maniera una santa che visse la consapevolezza femminile in maniera completamente diversa. Quindi è possibile, proprio in conclusione, Marco, manca un minuto, riscrivere con pieno rispetto comunque di chi li considera comunque momenti di un culto, di un cammino spirituale, la vita dei santi anche come esempi di anticipazioni, di caratteristiche che poi hanno segnato la società contemporanea. Questa santa viene in mente la santa dei social network, perché la santa che scrive i suoi diari per eccellenza e porta avanti istanze molto avanti. Poi l'altra santa fotografa, ce ne sono altri di santi che danno questa idea. Sì, ma ecco, considerare oggi questa santità significa proprio vedere la modernità di questi santi, che in qualche maniera hanno anticipato ambiti culturali che sono di oggi e noi ci siamo dimenticati di loro. Devo dire che è un grande insegnamento anche per chi crede nella necessità di considerare i limiti della nostra condizione umana, persone che anticiparono i tempi, che rappresentavano nell'epoca in cui sono prodotti degli esempi, gli oggetti reali di culto per il loro corpo santo, poi il transeunte caratterizzarsi della natura umana fa sì che oggi se li sono quasi tutti dimenticati, ma noi li abbiamo nel lasso di questa breve trasmissione ricordati assieme a Marco Pizzo. Alla prossima!